si parla anche a me. E dove non si parla di me, guidate questo lampo attraverso l'aria sottile e restate accanto a me. Solitudine di silenzio e quiete, mentre riposate occhi socchiusi, non ho alcuno con cui parlare, ma canto come sempre per farmi addormentare. Giochiamo sull'erba piegata dal vento, momento lungo e breve, cresciamo insieme. Proviamo a indovinare chi saremo un giorno e dove ci troveremo se ci saremo persi. Proviamo a indovinare quali saranno i nostri nomi, dove avremo nascosto i nostri tesori. Proviamo a indovinare dove sarà allora il sole. Noi persone sole, non sole, in mezzo a questi atomi. Now my